Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che da 10 anni tenta di capovolgere le priorità e l'agenda delle notizie mettendo gli altri animali in pole position. Cerchiamo quindi di capire come sarebbe la vita sulla Terra se noi umani riuscissimo a negoziare un nuovo patto di convivenza più equo con i viventi non umani. Questa è la puntata numero 645, nella quale parleremo dell'orca che ha risalito il fiume Senna in Francia. Lo faremo per darvi la notizia che avremmo preferito non apprendere. Parleremo della Giornata Mondiale degli Oceani e di come questa importante giornata sia stata celebrata dall'associazione Sea Shepherd. Parleremo della scomparsa dei ghiacciai sulle Alpi e dell'anacronistica e brutale tradizione delle carresi. Non mancherà la consueta ricetta cruelty free e molta ottima musica a cura del nostro poliedrico e creativo chef Gabriele Palloni. Speriamo di avervi incuriositi. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. Non ce l'ha fatta l'orca che alcune settimane fa era entrata per sbaglio nel fiume Senna in Francia tra Rouen e Le Havre. Ne abbiamo parlato approfonditamente durante la scorsa puntata, la 644, che trovate nel nostro blog restiamoanimali.it, dove troverete i podcast di tutte le nostre puntate precedenti. Si trattava di un giovane maschio lungo circa 4 metri. I vari tentativi che sono stati messi in campo per ricondurre l'orca al mare sono tutti falliti, anche quelli che avevano utilizzato tecniche sonar per cercare di farla arretrare, riconducendola nell'acqua salata del mare della Manica e così salvargli la vita. L'orca, infatti, non trova abbastanza cibo nel fiume e l'acqua dolce è nociva per il suo organismo, ma tutto è stato inutile. L'animale sembrava ed era gravemente malato, tant'è che l'autorità regionale in un comunicato aveva dichiarato che l'unica soluzione praticabile era l'eutanasia. L'orca era stata notata la prima volta dai pescatori il 16 maggio tra il porto di Le Havre e la città di Honfleur in Normandia, ma le prime segnalazioni risalgono al 5 aprile, quando l'equipaggio di un peschereccio aveva fatto quell'incontro davvero inusuale a 30 km dalla costa. Poi l'orca era stata vista risalire la Senna fino a Rouen, ma più nuotava nell'acqua dolce del fiume più era evidente il suo malessere. Alcuni esperti avevano detto ha un comportamento erratico e disorientato, aggiungendo che le registrazioni sonore rivelavano richiami vocali simili a grida di angoscia. Anche una diagnosi era stata azzardata: l'orca sarebbe stata affetta da mucormicosi, un'infezione sempre più diffusa tra i mammiferi marini. La morte del cetaceo è stata annunciata il 30 maggio da una squadra di Sea Shepherd, l'associazione ambientalista e animalista impiegata da anni nella protezione della fauna marina, che con i suoi mezzi cercava da giorni di proteggere l'orca. Sea Shepherd ha intercettato la carcassa galleggiante a pancia in su e ha potuto verificare che la pelle era gravemente ulcerata. I volontari hanno continuato a vigilare il cetaceo in attesa che le autorità recuperassero la carcassa ed effettuassero poi l'autopsia. Sandro Mazzariol, patologo veterinario, ha affermato che il caso non è isolato. Cioè un problema generale di spostamento di animali verso luoghi anomali, specchio di un ambiente che cambia. Per il professore, quindi, queste migrazioni anomale potrebbero essere legate a fattori climatici. Sempre Mazzariol ha ricordato che l'anno scorso nel Mediterraneo è stata trovata una balena grigia che avrebbe dovuto stare nel Pacifico. Poi è stato addirittura avvistato un tricheco tra le acque inglesi e francesi. Anche davanti alla città di Genova, 2 anni fa, sono comparse 5 orche che arrivavano dall'Islanda. Purtroppo la migrazione è stata loro fatale. Una riflessione andrebbe fatta e una rapida marcia indietro rispetto a un modello di sviluppo e di consumo che evidentemente è insostenibile e di cui saremo anche noi vittime, noi umani, ma solo dopo aver portato a termine quello che da alcuni autori è stato chiamato un genocidio animale. No voy a ser una conquista más, me buscarás y no me encontrarás. No soy tan fácil de atrapar como parezco. Te arriesgarás y te obsesionarás, querrás probar lo que te puedo dar. Convénceme y descubrirás lo que viene luego. Solo así conseguirás disfrutar de mi juego. Si quieres continuar, mi fuego encenderás. Llévame al cielo, no merezco menos por eso. Yo no me voy a conformar, no pongas freno. Recorre mi cuerpo, deseo contigo llegar al final. Continuiamo a parlare di mare e dell'associazione Sea Shepherd. Mercoledì 8 giugno è stata celebrata in tutto il mondo la giornata degli oceani e l'associazione Sea Shepherd l'ha festeggiata nell'unico modo possibile, cioè lavorando in mare per proteggerlo. L'equipaggio della MY Sea Eagle, in accordo con la Guardia di Finanza del Comando Navale di Vibo Valentia, ha individuato e disarmato un palamito pronto a mietere le sue vittime davanti alle coste calabresi. Dopo alcune ore di lavoro ha estirpato dal mare 6 km di lenza principale e 180 ami dai suoi bracci secondari. Il dispositivo non era in possesso di alcun identificativo, rientrava quindi nella cosiddetta pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Con il sopraggiungere della notte è poi stato scoperto anche un secondo palamito. L'incessante lavoro dei volontari a bordo è stato reso ancora più arduo dal peggioramento dello stato del mare e dalla pericolosità nel maneggiare le centinaia di ami presenti lungo la lenza. Nonostante le difficoltà, altri 2 chilometri di lenza sono stati issati a bordo. La distruzione che ogni singolo palamito può provocare all'ecosistema marino è enorme. Senza contare l'impatto sulle specie che i pescatori vogliono catturare. Troppo spesso questa tecnica di pesca infatti colpisce anche animali protetti come le tartarughe marine. Vista la recente apertura della pesca al tonno rosso, l'associazione Sea Shepherd si aspetta di intercettare anche altre attrezzature irregolari. I nostri equipaggi, ha scritto l'associazione in un comunicato, come ogni anno continuano a rimanere in mare per difendere i suoi ecosistemi dall'avidità umana. Supportare Sea Shepherd è possibile in tanti modi, anche donando il 5 per 1000 a questo codice fiscale 97560620151. Fiesta y velo con él. molti di noi è capitato di assistere a scene disturbanti, come per esempio bambini che con il retino catturano in mare, a pochi metri dalla spiaggia, meduse o altri piccoli pesci o molluschi e li gettano nella sabbia bollente o sugli scogli, facendoli morire in modo atroce. A volte per pura noia, a volte credendo erroneamente che per acque pulite si intendano solo quelle disabitate da qualunque forma vivente. A me è capitato più volte di dover ricordare a bagnini e famiglie che si tratta di un reato, cioè di maltrattamento animale, che per pescare occorre una licenza e che si rischiano sanzioni anche consistenti. Sensibilizzare bambini e bambine, ma anche e soprattutto le loro famiglie, a rispettare gli animali del mare e dei litorali è lo scopo della campagna Il mare è la loro casa, un'iniziativa dell'associazione LAV, Lega Antivivisezione, con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, che prende il via quest'estate in una serie di comuni italiani che aderiscono alla iniziativa e che tocca anche grandi città turistiche come Venezia. A disposizione delle amministrazioni comunali ci saranno degli striscioni da affiggere sulle spiagge, locandine con i consigli per una buona convivenza con gli animali del mare, cartoline da distribuire ai bambini. Tutti i materiali avranno un QR code attraverso il quale si può accedere alla pagina web con tanti consigli utili. Ci sarà anche un podcast e un PDF da scaricare con una storia da leggere o da ascoltare sotto l'ombrellone rivolta proprio a bambini e bambine. L'abitudine di catturare piccoli animali sulla spiaggia purtroppo è molto diffusa, dichiara LAV, e sia i bambini che le loro famiglie sottovalutano il maltrattamento che quegli stessi animali subiscono. Cambiamenti di temperatura, manipolazione, urti, carenza di ossigeno provocano gravi sofferenze agli animali marini. Considerazioni simili si possono fare per gli animali di terra che popolano la spiaggia e la zona delle dune, senza contare il potenziale danno ambientale che si può produrre. Potete facilmente trovare il sito web con la parola chiave Il mare è la loro casa, campagna in spiaggia dell'associazione LAV. Per avere ulteriori informazioni, ma soprattutto per eventuali comuni o enti pubblici e privati che volessero aderire, è possibile contattare LAV scrivendo a educazione@lav.it. Voglia di mare può portare anche a questo. Circa 17.000 animali acquatici tropicali e 246 coralli protetti dalla Convenzione di Washington, che è quella che norma il commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, sono stati intercettati dalle fiamme gialle del gruppo di Fiumicino, insospettite da alcune spedizioni commerciali che avevano come oggetto campioni. Aprendo i pacchi è stato appurato che il contenuto era costituito da pesci tropicali, anemoni, crostacei, molluschi, spugne marine, tridacne e coralli di ogni specie prelevati dalla barriera corallina indo-australiana, sprovvisti della certificazione CITES e delle autorizzazioni sanitarie prescritte dalla normativa europea e nazionale. I trafficanti quindi avevano creato un vero e proprio corridoio per rifornire clandestinamente allevatori, importatori, commercianti al dettaglio e fabbricanti di acquari sparsi sul territorio nazionale. La nostra raccomandazione è sempre la stessa: evitare ogni tipo di acquisto. Se amate il mare ci sono tanti magnifici documentari e se proprio non potete farne a meno, frequentatelo, immergetevi, ma mi raccomando, armati solo della vostra curiosità. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Satelliti americani Landsat, che fotografano lo stato di salute della Terra e in particolar modo quello delle Alpi, la più grande catena montuosa europea, ci stanno avvisando che purtroppo queste magnifiche montagne sono sempre più verdi e sempre più povere di neve, con la vegetazione che sale sempre più in alto. Ad affermarlo è la ricerca pubblicata sulla rivista Science dalle università svizzere di Basilea e di Losanna, in collaborazione con i ricercatori di Paesi Bassi e Finlandia. Finora non era mai stata condotta un'analisi così dettagliata dei cambiamenti avvenuti nella vegetazione alpina. I satelliti Landsat di NASA e Servizio Geologico Statunitense hanno registrato i cambiamenti avvenuti tra il 1984 e il 2021. E la conclusione dei ricercatori è che, come sta accadendo nell'Artico, anche le Alpi stanno diventando sempre più verdi. Riducendosi vistosamente la copertura della neve, purtroppo si innescano una serie di reazioni a catena che potrebbero portare allo scioglimento del suolo ghiacciato, il permafrost, distruggendo così gli habitat che attualmente ospitano animali e piante tipici della zona alpina, con riflessi che potrebbero arrivare a colpire anche l'economia di quest'area, a partire dal turismo. La portata del cambiamento si è rivelata assolutamente enorme nelle Alpi. La biodiversità unica delle Alpi è stata quindi sottoposta a una notevole pressione. E noi facciamo notare che ancora una volta, quando si parla di danni ad animali e piante, si parla di un problema di tipo economico. È come se piante e animali avessero un valore mai per se stesse, mai in se stesse, ma soltanto in relazione all'economia che gira intorno a questi ambienti naturali, agli animali e alle piante. Ecco, qui bisognerebbe cominciare veramente a capovolgere lo sguardo, perché evidentemente lo sfruttamento economico non è un fattore che garantisca la protezione né delle piante, né degli animali, né dello stesso ambiente in cui viviamo. Anche questa settimana abbiamo sfidato il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, chiedendogli di dedicare una ricetta cruelty free all'ambiente alpino. Riuscirà il nostro talentuoso chef a trovare anche questa volta un nesso? Sentiamo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ricetta alpina quest'oggi. E allora vi racconto come si fa la bisciola, un dolce a base di frutta secca tipico delle festività, ma che secondo me non sfigura nemmeno a colazione per una bella carica di energia. Gli ingredienti per una bisciola sono 150 g di fichi secchi, 100 g di uvetta, 80 g di noci, 80 g di pinoli, 50 g di farina tipo 0, 50 g di zucchero di canna, 30 ml di olio di oliva, 30 g di farina di ceci, 180 ml di latte vegetale, 15 g di lievito di birra, 50 ml di grappa e un pizzico di sale. Per prima cosa mettete in ammollo l'uvetta nella grappa e lasciatela riposare per circa mezz'ora. A parte sciogliete il lievito di birra nel latte vegetale tiepido assieme a un cucchiaino dello zucchero di canna e lasciatele riposare per 5 minuti. Nel frattempo, in una bowl, unite la farina di ceci, lo zucchero di canna, un pizzico di sale e l'olio di oliva. Mescolate il tutto e unite il lievito e tutto il latte vegetale. Tritate grossolanamente le noci, i pinoli e i fichi. Scolate l'uvetta e unite tutta la frutta secca all'impasto, mescolando ancora un po'. Lasciate riposare un'ora in forno con la sola luce accesa, coprendo con un panno. Recuperate l'impasto e su un piano di lavoro infarinato formate una pagnotta. Realizzate un taglio a croce e adagiatela su una teglia con carta forno. Fate riposare ancora 30 minuti, quindi infornate la bisciola a 200 gradi per 15 minuti. Poi portate a 180 gradi il forno e cuocete altri 15 minuti. Infine, a 150 gradi, per altri 10-15 minuti. Lasciate raffreddare prima di servire. It's that bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina, l'ultimo, edito da Newton Compton e fresco di ristampa, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Potete trovarlo e acquistarlo in rete. Obbligati a correre, presi a colpi di bastone per il divertimento degli umani. È la tradizione barbara e anacronistica delle cosiddette carresi, le corse dei buoi, eventi molto popolari e sentiti in regioni come la Puglia, il Molise e il Piemonte. Qui, in occasione delle feste dei santi patroni, i poveri buoi sono costretti a trainare carri carichi di persone e correre fino allo sfinimento per diversi chilometri, mentre vengono spronati con bastoni chiodati e verghe. Ma cosa c'è di bello nell'assistere a uno show del genere? Nel 2018 un bue morì stremato durante le prove per le corse. E sempre nello stesso anno la carrese di Chieuti, in provincia di Foggia, finì in tragedia con la morte di un uomo travolto da un cavallo fuori controllo. Nell'aprile scorso la eurodeputata Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di Europa Verde, puntò il dito contro le carresi e ne chiese l'annullamento, definendole un'usanza inaccettabile, che non può essere tollerata sulla base di assurde e anacronistiche giustificazioni culturali e tantomeno mantenuta profittevole grazie a iniezioni di denaro pubblico, in quanto è una pratica crudele con gli animali che vengono pungolati e picchiati con i bastoni. Basta guardare i tanti filmati disponibili per accertarsi che si tratta di una pratica ignobile. È inammissibile che la dignità di animali così pacifici venga calpestata in virtù di un malinteso senso dello spettacolo, tirando in ballo un significato religioso che è invece lontano anni luce da queste pratiche crudeli. Questa lunga premessa ci è servita per introdurre la notizia che riguarda una carrese che si è corsa il 6 giugno scorso a Porto Cannone in provincia di Campobasso, dove uno dei tre carri in gara si è rovesciato. Nell'episodio in questione, che ha visto due dei tre carri in competizione incidentati, ci sono stati due feriti, uno più grave, con diverse fratture agli arti superiori. Per miracolo, aggiungono gli animalisti molisani, non è stato travolto dal secondo carro sopraggiunto, altrimenti ora staremmo piangendo la perdita di una vita umana. Sono state durissime anche le reazioni delle associazioni nazionali. L'incidente poteva avere esito mortale e mostra ancora una volta che si tratta di una manifestazione pericolosa per gli uomini e per gli animali. Questa è la presidente dell'ENPA, Carla Rocchi, la quale ha rilasciato una lunga dichiarazione nella quale lei si chiede come sia possibile che il Ministero dei Beni Culturali possa riconoscere alle carresi molisane la qualifica di bene di interesse storico-culturale etno-antropologico importante. È qualcosa di indecente, una sopravvivenza di un passato da dimenticare, un maltrattamento di animali per finalità folcloristiche non condivisibili. Lasciamo a voi ascoltatori trarre le dovute conclusioni da questa vicenda. Vi suggeriamo comunque di dare un'occhiata alla pagina Facebook Stop Corsa Vuoi, quantomeno per essere informati. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big, bills, bitch, I'm a big deal. Legs, legs, face, eyes, thin, waist, thick, thighs, you, me, you, wish, new, phone, who, this, pussy, puss, puss, give him cunt, cunt, cunt, bitch, mama, yes, God, then you pop that tongue, bitch, this whole club is my runway, run, bitch, y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch. Girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, strut, strut, and then sashay. Okay. But I don't work for free. No. That's not the tea, hunty. No, so make it rain on me, and I might let you see. What you gonna let them see? My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. Head, shoulders, knees, toes. Don't know these hoes. Face, lips, eyes, nose. Camera, click, we pose. Beat, mug, limp, wrist. VIP list. Wave, wave, blow a kiss. I'm that bitch, sis. Left, right, left with a spin, bitch. Where's my sash and crown? Cause I win, bitch. I'm so fab, I'm gone with the wind, bitch. Y'all 6, 7, 8, 9s, I'm a 10, bitch. Girl, what did that girl just say, girl? That's all. Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione al completo composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier, Valentina Baronti e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio, una voce un po' raffreddata. L'appuntamento con la puntata numero 646 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.